quale alegria. Se ti ho cercato per una vita senza trovarti, senza nemmeno avere la soddisfazione di averti e vederti andare via, quale allegria. Na na na, quale allegria. Se non riesco neanche più a immaginare, senza sapere se volare, se strisciare in su, non so più dove cercare. E allegria, senza far finta di dormire con la tua guancia sulla mia, sapere invece che domani, ciao, come stai, pacca sulla spalla e via. Quale allegria. Quale allegria cambiar faccia 100 volte per far finta di essere un bambino. Un bambino con un sorriso ospitale, ridere, cantare, far casino, insomma far finta che sia sempre un carnevale, sempre un carnevale. Na na na na. Senza allegria uscire presto la mattina, la testa piena di pensieri, passare macchine e giornali, tornare in fretta a casa, tanto oggi è come ieri. Senza allegria, anche sui treni e gli aeroplani o sopra un palco illuminato, fare un inchino a quelli che ti sono davanti e sono in tanti che ti battono le mani. Senza allegria, a letto insieme senza pace, senza più niente da inventare, essere costretti a farsi anche del male per potersi con dolcezza perdonare. Senza allegria far finta che in fondo in tutto il mondo c'è gente con gli stessi tuoi problemi, per poi fondare un circolo serale per pazzi sprasolati un po' scemi, facendo arrivare in salute al gran finale, mentre già pronta Andrea un bastone 100 denti che ti chiede di pagare per i suoi pasti mal mangiati, sogni trovati, i furti obbligati per essere stato ucciso 15 volte in fondo a un viale, 15 anni la sera di Natale.